si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. L'appuntamento oggi, noi siamo in diretta, anche se è festa, mentre i fedeli sono in Vaticano che ascoltano le parole del Papa, noi siamo qua a fare la puntata che si può fare in diretta. Non c'entrava nulla, ma così era per contestualizzare, visto che oggi è festa e una parte anche della programmazione di Radio 24 è naturalmente registrata. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, così avete la prova che appunto siamo in diretta. Uno dei problemi di questi giorni per gli italiani con l'arrivo della neve è la mobilità, perché noi siamo anche un programma di servizio, la mobilità in macchina. Succede che un emendamento al decreto sviluppo prevede la possibilità di bandire sostanzialmente le catene da neve e dare invece spazio ai pneumatici da neve, le gomme da neve, però gli italiani stanno impazzendo perché non si capisce più cosa si deve e cosa non si deve fare. Ci sono comuni nei quali il sindaco ha detto no, io questa ordinanza non la faccio perché non si può chiedere alla gente di spendere tutti questi soldi per le gomme da neve. Che succede? Allora noi tra poco vi diremo esattamente quello che si deve e non si deve fare con niente po' di meno che la Bibbia dell'automobilista, il direttore di Quattro Ruote, tra poco. E visto che il programma è ricco di notizie, facciamo un breve sommario, così vi diciamo di quello di cui parleremo. Nasce in Toscana la Off-Grid Academy, un'accademia, un'università per imparare a costruire il risparmio e l'autosufficienza energetica per le abitazioni, ma non solo. Si parla anche di mobilità, trasporti, acqua, rifiuti. È una cosa non solo velleitaria dei pochi matti che ci stanno provando, c'è il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Vedremo di cosa si tratta. A Milano, invece, e parleremo anche di questo più avanti, nasce e fa un passo in avanti il progetto Case Mediche, medici di base associati in ambulatori a canoni agevolati per rendere più capillare il servizio della salute in una città complessa come Milano. Una segnalazione la vogliamo dare, riguarda Genova. Oggi pomeriggio, abiti e scarpe allo Swap Party vince il baratto. Iniziative partite su Facebook con il tantam e il passaparola stanno andando abbastanza di moda in questo periodo. Oggi c'è un appuntamento nel pomeriggio a Piazza delle Erbe a Genova, registrazione baratto e baratto e musica, poi in serata, se siete interessati, potete andare. E allora, iniziamo con il primo ospite, che è niente po' di meno che Carlo Cavicchi, il direttore di Quattro Ruote. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, che succede con questa questione delle gomme allora, da neve? Mettiamo subito un po' di tranquillità. La norma, che è una norma assurda e abbastanza interessata, è stata introdotta con al decreto sviluppo con un emendamento che fa un'aggiunta, un comma che dice che, e questa è la cosa importante da seguire, che allorché il gestore delle strade, quindi non l'autorità, la polizia stradale, cosa, ma il gestore delle strade possa ritenere che venga a nevicare a queste condizioni molto critiche, può non obbliga, può impedire l'accesso sulla strada alle vetture che non abbiano le gomme termiche o comunque le gomme da neve sotto. Sì. Quindi non bastano più le catene, ci vogliono più forse le gomme neve, ma spetterebbe al gestore delle strade. Già questo è un assurdo. Seconda cosa, la norma è infilata così, è abbastanza dubbia, perché sembrerebbe che ci sia un interesse dei gommisti a far questo passare si è questo. Detto, esatto. E questo ovviamente, la norma non è ancora passata, è passata ugualmente in Senato, dovrà andare alla Camera la prossima settimana. Si teme che passerà, perché nella confusione viene una fiducia, ecco che la cosa può passare. Questa norma è anche assolutamente ingiusta, perché obbligherà chi occasionalmente può trovarsi in quella situazione, pensiamo chi abita nelle grandi città, ad esempio in città del sud, dove la neve è una rarità, quindi non può dotarsi la macchina, non ha senso dotarsi la macchina di gomme neve, anche se nell'inverno e sarebbe sempre prudente usarlo, questo va detto, perché le gomme invernali, le gomme termiche sono veramente molto sicure. Però io ho sentito... Ma al di là di questo, sì, che sono sicure, resta il fatto che io non le ho perché di fatto non ne ho bisogno, mm-hmm. mi trovo in un tratto e mi dicono che devo averle. Ecco, questo è l'assurdo, punto, no? Certo. No, ma il grave, chiedo scusa se intervengo, ma è una cosa sì. molto importante. Dov'è che la norma è una norma stupida e soprattutto ingiusta? Perché io, se anche le volessi mettere, se io sono anche uno che mi trovo all'improvviso, sono disposto a spendere 600 euro, ecco, 700 euro le monto, non le trovo, perché le gomme neve, se non si sono prese a settembre, non ci sono adesso più. Non ci sono, quindi diciamo che è un emendamento quantomeno intempestivo a questo punto. Sì, è sicuramente è disonesto. Sembra un po' interessato. E se lo dice il direttore di Quattro Ruote, possiamo crederci. No, perché crederci. Non ha senso metterlo. Lei pensi, se a me consegnano sì. la macchina in concessionaria oggi, che è il 7, l'8 di dicembre, mi danno la macchina, me la consegno con le gomme normali, io fuori esco, voglio mettere le gomme neve, non le trovo. Cosa faccio? Non giro più con la mia macchina nuova, non le potevo mica comprare. No, perché da un certo punto di vista, naturalmente, potrebbe essere, ed qualcuno l'ha salutata anche come una buona notizia, no? Cioè, nel senso, una rivoluzione tecnologica, addio alle catene e a tutte quelle manovre che facevamo nel freddo, e che queste indomabili catene da neve, che poi sono migliorate negli anni, d'accordo, però hanno sempre causato diversi problemi agli italiani. Adesso questo potrebbe essere un fatto positivo, però arrivare così a metà inverno, alla prima nevicata, a cambiare le carte in tavola. E poi c'è la questione del costo, però lei ci ha spiegato, Cavicchi, qual è la situazione. L'emendamento non è ancora approvato, quindi non è ancora legge. Andiamo avanti con, per ora, le catene dove c'è bisogno. Sì. E poi vedremo. C'è una cosa grave da dire, mi sì. scusi e finisco, però ricordatevi che in certe condizioni, specialmente, dobbiamo pensare non solo alle automobili ma anche ai mezzi pesanti. Quando la pendenza supera il 2%, i camion non vanno su. Se non hanno le catene, non si muovono neanche con le altre gomme. La catena è un'emergenza. Serve soltanto per pochissimi tratti, perché è un errore usarla quando non serve, perché rovina la macchina e rovina le gomme. Ma in quei pochi tratti la catena va dove non va la gomma. Questo deve essere chiaro. I camion, se no, si fermano, non c'è possibilità. E più la catena si trova a qualsiasi distributore di benzina, si trova in un supermercato, si trova a 4 lire, è un'emergenza, uno le può trovare, o le può tenere sempre a bordo, come sarebbe importante farlo, perché in certe situazioni si superano solo con le catene. Ma poi, insomma, chi guida il camion è abituato ad affrontare queste questioni, quindi magari è anche più informato. Ci premeva informare invece anche i semplici cittadini, l'abbiamo fatto, ringraziamo il direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi, grazie per essere stato con noi. La Bibbia dell'automobilista ci ha spiegato questa questione delle gomme da neve. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kind of place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Un uomo solo davanti all'autorità, un ciclista per caso che non sa dove parcheggiare la sua bicicletta, e allora ecco l'idea: se le rastrelliere non ci sono, allora le metto io con le mie proprie mani. E quello che è accaduto ad Altamura, il luogo di questa vicenda è ancora più clamoroso, il comune. E allora ne parliamo con l'autore di questa iniziativa, Giovanni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Giovanni, ospitato. Sì, no, grazie a lei per questo gesto, questa iniziativa di, come vogliamo chiamarlo, di presa in carico di un piccolo problema, quale quello del parcheggio delle biciclette davanti al comune d'Altamura, che però i ciclisti sanno, poi le biciclette spariscono perché vengono rubate, la rastrelliera serve ed è un luogo sicuro dove parcheggiarle. Ci racconti la vicenda che vede coinvolto anche un assessore che l'ha quasi mandata a quel paese? Beh, no, io direi intanto che non è un piccolo problema, perché sensibilizzare la gente a usare questo mezzo per muoversi penso che possa rendere le nostre città più vivibili e quindi a misura d'uomo. Certo, questo sicuramente. Quindi è un piccolo problema che potrebbe diventare una grossa opportunità per tutti per vivere meglio. Veniamo, diciamo, al fatto. A quello che è successo a lei, sì. Sì, sì, sì, sì. Senti, allora io uso muovermi nel centro con la bici, diciamo, tempo permettendo, quindi quando lo posso lo faccio. Adesso magari un po' meno in questi giorni. Sì, però. Sì. No, vabbè, anche in queste giornate basta coprirsi, quindi tanto non è che dobbiamo fare chilometri, quindi il centro storico. Altamura è piccola, lei lavora in comune, no? Sì, è un comune di 70.000 abitanti. Non no, ma dico, lei lavora proprio in comune, è lì che si reca ogni mattina? No, io diciamo faccio il libero professionista, quindi... Ogni tanto si reca in comune per questioni di lavoro. Sì, ma non solo al comune, anche uffici, altri uffici, quindi uso muovermi con la bici. E niente, siccome purtroppo la mia città è sprovvista di servizi per chi si muove in bici, e questo è anche... Cioè di servizi, di piste ciclabili e magari di rastrelliere dove sì, parcheggiarla in modo sì, sicuro. Perché, cosa è successo a lei a un certo punto? Niente, io un giorno parcheggiavo la mia bici nell'androne del comune, quindi non avendo altre possibilità, la parcheggiavo lì, e incontrandomi con un assessore gli dissi: scusa, ma perché non ci attrezziamo con un po' di lavoro, almeno in prossimità di uffici pubblici? Una provocazione che mi fu fatta e mi fu detto: vabbè, allora a questo punto mettila tu. Io non è che mi sono fatto tanti problemi. E l'ha messa la rastrelliera? Sì, l'ho messa. Sì. Ma la rastrelliera adesso è ancora lì? Sì, è ancora lì, sì. Fra l'altro una curiosità, a parte questa notizia è stata colta con prontezza dal sito Altamura Life, che ha riportato questa gustosa notizia e noi siamo rimasti subito impressionati, perché questo è un programma super amico delle biciclette, e allora abbiamo detto: questo Don Quixote delle biciclette dobbiamo assolutamente intervistarlo. La rastrelliera è ancora lì, dove se l'è procurata, Giovanni? Se l'è fatta fare? Stavo dicendo che ho incaricato il mio fabbro di fiducia, l'abbiamo fatto zincare, tutta per bene. Una cosa carina anche. Sì, insomma, attinente al centro storico, perché comunque non volevo, diciamo, deturpare anche dal punto di vista estetico, perché poi questa è una questione che viene sollevata, per esempio nel mio condominio non gliene fregherà niente a nessuno, ma è così, non vogliono mettere la rastrelliera delle biciclette per questioni credo anche estetiche. Giovanni, però il suo gesto clamoroso, originale, simpatico, però era anche una provocazione. Lei adesso aspetta che in comune qualcuno prenda l'iniziativa e faccia quello che deve fare. Sì, io ho raccolto la provocazione di un amministratore, e poi ho messo questa rastrelliera, e la giornalista Angela Colonna, diciamo, ne ha dato anche risalto a livello locale. Ma io con questo gesto non ho voluto fare diciamo il Don Quixote, vabbè, anche quello, però è una provocazione nei confronti dell'amministrazione, devo dire: ok, io ho raccolto la tua provocazione, quindi mi hai detto di fare questo, io l'ho fatto. Adesso raccogli la mia provocazione e quindi... E fai tu qualche cosa. E fai tu qualche cosa, diciamo, un progetto non andrebbe, non sarebbe male. Un vabbè, progetto. Poi ci vuol poco, perché comprare quattro rastrelliere e metterle per esempio davanti al comune sarebbe già una iniziativa. Giovanni, grazie intanto, e noi aspettiamo la prossima prodezza da parte sua. Vada avanti così, perché ci vogliono cittadini così che fanno e provocano reazioni positive, speriamo. Tra l'altro Altamura, lo dico io, è una città che ha un'amministrazione anche un po' complessa, c'è stato un commissariamento, le cose non sono proprio lineari, e quindi problemi su problemi. Grazie intanto a Giovanni da Altamura, nell'anonimato, perché non voleva diventare protagonista nome e cognome di questa vicenda. E però se ne farà un'altra delle sue, torneremo ad Altamura. Che primavera, prende bene andare in giro con il sole che saluta la sera. Oggi che primavera, e ho buttato i miei pensieri via la noia e il magone, li ho buttati tutti quanti stamani, tutti dentro un bidone, e fuoco col cherosene, e a modo è possibile vivere in un'abitazione moderna scollegati dalle reti di grande distribuzione di acqua, gas, cibo, energia? se lo stanno chiedendo gli esperti della Off Grid Academy, che stanno per far partire un progetto in questo senso all'isola di Capraia. Loro adesso sono riuniti proprio in queste ore in un altro luogo della Toscana, vogliono vivere a modo loro, un progetto però che ha anche il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. E allora ne parliamo con Emiliano Cecchini, che è presidente del comitato scientifico di questa Off Grid Academy. Emiliano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Dove siete? Cosa state facendo? Perché state per mettere in piedi questa accademia con dei veri e propri corsi. Di che cosa si tratta? Il paradigma è quello che dicevi poco prima, cioè scollegare delle case, degli compound, delle comunità dalle reti e anche riorganizzarle in maniera più partecipativa, più autosufficiente. Noi abbiamo ragionato molto sulle tecnologie, dall'idrogeno alle fitodepurazioni, i cicli chiusi delle acque, l'utilizzo dell'acqua piovana, filtri ultravioletti, quant'altro, energie rinnovabili, eccetera. La cosa ha trovato concretezza ora in questa isola dell'arcipelago toscano, in collaborazione un po' con tutti. C'è stato molto entusiasmo da parte della popolazione, dell'ente parco, del ministero, del sindaco. Un'isola, scusa Emiliano, interrompo per dire questo, magari lo stai dicendo tu, proprio perché in un'isola si è già in qualche modo scollegati, allora sperimentare l'autosufficienza può essere un modo centrato, particolarmente centrato. Sperimentare i sistemi a isola su un'isola diventa una cosa più autoevidente, più evocativa e più forte. Tanto che il ministro Clini ha sposato questo progetto. Il ministro Clini ha dato il patrocinio all'evento di lancio che è stato a ottobre, è il presidente onorario di questa Academy, ma non ci sono tanti entusiasmi, ci siamo ritrovati più di 100 persone sull'isola, siamo qui ancora con tantissimi contributi questa mattina a mettere giù bene i temi, le possibili collaborazioni che sono aperte a tutti quelli che hanno voglia di imparare o insegnare o fare cantieri pratici. Ecco, perché poi una cosa importante è questa: voi sull'isola di Capraia farete, credo di aver capito bene, da giugno, anche per sfruttare forse il clima, periodo estivo, vacanza e corso di che cosa? Quali sono i corsi di cui state valutando la fattibilità proprio adesso? Ma proprio in questi momenti si parla di due tipi di corso, uno più professionalizzante, quindi si imparerà a dimensionare le vasche di fitodepurazione piuttosto che gli elettrolizzatori per l'idrogeno, piuttosto che gli stoccaggi in batteria dei pannelli fotovoltaici. Oddio, non ho capito nulla, però più tecnologico. Un altro più lifestyle, in cui si insegna a squadrare, piantumare un orto, si insegnano così a riutilizzare le risorse in loco, a costruire le cisterne per l'accumulo dell'acqua piovana e quant'altro. Ecco, a proposito di cisterne, ricordo anche che questo progetto che ha alle spalle la Fabbrica del Sole di Arezzo ha avuto già un prodotto in qualche modo certificato, commercializzato, la off-grid box proprio per l'acqua piovana, com'è? Esatto, questo box è un box che si mette vicino a una casa, come quello dove siamo adesso qui all'agriturismo, e rende autosufficiente una casa perché prende le grondaie e accumula l'acqua piovana e la purifica, prende l'uscita delle fogne e la ricicla nei WC, quindi l'acqua è in odore, in colore, ma sempre a ciclo chiuso, fa idrogeno. Quanto costa questo box? C'è un amico che ha un terreno senza acqua in Toscana e fa l'agricoltura biologica e vorrebbe averlo sicuramente. Ma dipende quello che ci metti dentro, dai 9.000 ai 30.000 euro, dipende quello che c'è. Bisogna abbassarlo il prezzo, Emiliano, sennò diventa... Sempre, c'è la crisi. Diamo in 30 secondi, abbiamo spiegato un po' il senso di quello che state facendo, quando poi partirete sicuramente ci risentiremo. Chi fosse interessato a partecipare, a fare corsi, a imparare, a conoscervi, cosa può fare, dove deve andare, ci sono dei siti, dei canali? Sì, oltre al sito della Fabbrica del Sole c'è il sito offgridacademy.it, lì subito segnalarsi se ha da insegnare o ha interesse a imparare tecnologie, stili di vita e anche paradigmi nuovi. E questa era la Off Grid Academy che da giugno all'isola di Capraia terrà dei corsi di cui stanno parlando proprio adesso. Io ringrazio Emiliano Cecchini, che è il presidente del comitato scientifico di questa cosa che sembra un po' da sognatori, ma ripeto, c'è il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, è una cosa evidentemente che ha anche una sua dimensione di serietà. grano dilatato quanto l'ano che per guadagnar sollievo ti darà. Un odore strano ma non quanto lo straniero che indeggenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato come un bimbo che non nato, dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere, la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo no. Poi giunse il tennista e fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che a nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe in me un po' di xenofobia. Mamma mia, questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. E perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce mai. Pier Davide Carone, la ballata dell'ospedale, questa originale e anche un po' gaberiana canzone di Carone. Perché parliamo di cosa? Delle case mediche, progetto che abbiamo annunciato in apertura a Milano, medici associati in spazi agevolati dal punto di vista del canone d'affitto, quindi più economici, nei quartieri popolari per favorire una salute che sia ancora più capillare in una città complessa anche dal punto di vista della gestione della salute delle persone come Milano. Una iniziativa che viene dai comitati per Milano che avevano sostenuto Giuliano Pisapia nella sua elezione. Adesso sono rimasti in piedi e vegliano, controllano che il programma elettorale di Pisapia venga tutto applicato. Anche questa è una buona notizia, la partecipazione dei cittadini. Adesso questo progetto delle case mediche sta decollando, almeno speriamo. Salutiamo Federico Robbiati. Buongiorno Federico. Buongiorno. Che per questi comitati per Milano, che sono, chiariamo, le associazioni di cittadini che hanno scelto di appoggiare Pisapia, ma che non si sono limitati, diciamo, a un sostegno elettorale. Adesso che l'amministrazione lavora e va fa quello che deve fare, voi fate un lavoro in più, cioè controllate che il programma venga in qualche modo applicato. Siccome nel programma di Pisapia c'era questa cosa di estensione del concetto di salute e medici di base su Milano, Federico, cosa avete diciamo recentemente salutato? Un passaggio che porterà al decollo di questo progetto delle case mediche? Sì, direi che abbiamo salutato due passaggi sostanzialmente. Uno, l'inserimento del progetto case mediche nel piano del welfare triennale dell'assessorato del welfare. E la seconda cosa, una delibera molto importante dell'assessorato al demanio che ha permesso la realizzazione di quello che stavate parlando prima, cioè l'affitto a costi calmierati di spazi anche per periodi piuttosto lunghi. Questa è un po' la chiave di volta del progetto, perché l'ipotesi è stata quella di far partire le case mediche, che in altre situazioni sono chiamate da 15 anni case della salute, UTAB, UCCP, senza esborsi da parte del pubblico, perché dobbiamo renderci conto che oggi come oggi sperare che il pubblico possa investire più di tanto è veramente un sogno. Perché diciamolo che una leva di tutto questo progetto è la decisione del comune, dell'assessore Lucia Castellano in particolare, di impiegare il patrimonio edilizio pubblico in qualche modo. C'è chi vorrebbe vendere il patrimonio immobiliare pubblico, c'è chi, come il Comune di Milano, oltre a pensare a questo, pensa però anche di utilizzare gli spazi, le sedi, insomma tutto quello che è edilizia pubblica per progetti, e uno di questi progetti è proprio quello delle case mediche. Quindi l'accelerazione nasce anche da questo: ci sono gli spazi per questi medici, che altrimenti dovrebbero pagare affitti troppo alti. Sì, soprattutto a Milano, perché gli affitti, sto parlando di spazi da 300 metri quadri in media, gli affitti per questi spazi a Milano sono veramente notevoli. L'ipotesi è quella che i medici di famiglia, così come prevede la delibera, si facciano carico dei costi di ristrutturazione, ma possono rientrare su questo costo in funzione della riduzione fino al 90% poi del canone di affitto. Questo permette anche di fare altri investimenti all'interno della casa medica, perché la casa medica, per chi non la conosce, il modello, diciamo, sì, delle case mediche centrate intorno al paziente, è una realtà in cui operano in maniera integrata medici di famiglia, una segreteria che ha delle funzioni non soltanto amministrative, ma anche diciamo funzionali, un'infermeria, e quello che sta nascendo a Milano è una forte integrazione con tutta la parte degli assistenti sociali. Cioè diventa in pratica un piccolo presidio medico, assistenziale, un posto anche di vitalità in quartieri magari popolari e un po' privi di certi servizi per forza di cose, perché gli ospedali non possono essere ovunque, gli assistenti sociali non possono essere ovunque. In questo modo, dato che il medico di base invece è una presenza già diffusa sul territorio, si rafforza questa cosa qua. E, insomma, voi siete partiti forti da questa esigenza che vedete importante in una città come Milano. A Milano c'è una realtà paradossale, mentre c'è un'offerta ricchissima e sicuramente forte sull'aspetto degli ospedali, c'è invece un forte ritardo per quanto riguarda appunto le medicine in associazione, questo tipo di realtà. Soltanto il 15% dei medici di Milano lavorano in gruppo e soltanto una frazione di questi fa veramente medicina integrata. Cioè, noi vogliamo sottolineare che queste realtà non sono un gruppo di medici sotto un tetto, ma un gruppo di medici sotto un tetto che lavorano insieme, certo, insieme ai pazienti, insieme al loro staff. E tra l'altro chi lo ha sperimentato sa che è una grande opportunità, perché si va dal medico di base, c'è la possibilità magari di avere nello stesso spazio anche la possibilità di fare altri approfondimenti, analisi, cure, senza doversi spostare, andare altrove, e si ha subito un ritorno di tutto quello che è il percorso, a volte faticoso, delle cure mediche. Quando avremo le case mediche a Milano, Federico, facendo una previsione realistica oltre che ottimistica? Sì. Allora, direi che stiamo scavallando il punto in qualche misura di non ritorno, nel senso la delibera ha creato la situazione adatta per queste cose qua, ma dall'altra parte ci sono alcuni gruppi di medici che sono pronti a firmare domani mattina, perché evidentemente senza medici non si costruiscono le case mediche. Diciamo che sono un po' la materia prima di tutto questo, oltre agli spazi che il Comune sta mettendo a disposizione. Insomma, qualche settimana, forse qualche mese? Diciamo qualche mese. Speriamo pochi. Allora, ragionevolmente si potrebbe arrivare in primavera ad avere le prime case mediche assegnate, poi potrebbero, utilizzo il condizionale, essere necessari lavori di ristrutturazione. Ma la cosa paradossale è che ci sono molti spazi non utilizzati che sono già stati ristrutturati negli anni passati e sarebbero già pronti, per qualsiasi ragione mai utilizzati. Vabbè, insomma, i quartieri immagino che saranno più o meno tutti quelli di Milano interessati, però forse è anche presto per parlarne. Io ringrazio intanto il nostro caro amico ospite Federico Robbiati, che ci ha illustrato il progetto Case Mediche a Milano. Il prossimo step sarà sentire gli assessori quando questa cosa diventerà legge. 800 24 00 24, un paio di ascoltatori. Bonifacio da Milano. Bonifacio, buongiorno. Buongiorno a lei. Io ho sentito in apertura la questione delle gomme da neve. Già. E avevo le orecchie tese perché non ne capiamo niente. Ma scusatemi, non avete concluso. Cioè, io cosa concluda devo... lei. Avete parlato della quasi obbligatorietà che passerà e non passerà degli pneumatici da neve. Avete parlato dei camion che non possono, le catene che devono essere. Ma io fino ad oggi circolo in inverno con le catene a bordo, sì, come mi hanno detto che la polizia richiede. Certo, è quello che deve continuare a fare. Ma voi non avete concluso. Concluda lei? Come? Concluda lei? Cioè, va bene che io tenga le... Allora, io non ho pneumatici da neve. Sì. Non cerco Buon faccio, di però andare... in 20 secondi, perché sennò qua ci perdiamo. Sì, no, sì, cerco di non andare in zone con neve, perché non mi interessa. Vabbè, questo mi sembra ma giusto. Se oggi, per esempio, è nevicato, ma io circolo con le catene a bordo. Va bene, è quello che deve fare. Perché la polizia sì, pretende le catene almeno a bordo. Va bene, Bonifacio. Il punto è che invece si era diffusa la notizia che fossero necessari i pneumatici da neve e non più le catene. Però questo è un provvedimento approvato in uno dei due rami del Parlamento, non è ancora definitivo. E allora il chiarimento era proprio anche su questo. E poi sulla utilità di questo cambiamento, che potrebbe anche essere epocale, però prevede dei costi, degli esborsi per gli automobilisti non indifferenti, credo qualche centinaio di euro per ogni cambio di gomme. Vogliamo sentire anche Pasquale da Firenze, buongiorno. salve, cerco di essere più sintetico possibile. Mi sono collegato ora, non vorrei essere fuori tema. Ho sentito che vuoi cercare delle idee per salvare, per venire incontro all'Italia, giusto? Mi sembra di capire. Ecco. Ma sì, diciamo che sì. Con la mia umiltà ne avevo due, ne avevo anche più di due, ma due le volevo esprimere. Ecco, cominciamo con la prima. Abbiamo un grande problema di liquidità in Italia, cioè pochi quattrini, pochi soldi, e questo discorso probabilmente limita molto anche le banche nella erogazione del credito. Sì. Io credo che per avere pronta consegna una grande liquidità in Italia, enorme, enorme, più di quella che si possa pensare, praticamente più di 300 miliardi disponibili, ci sono manovre fatti. Come? No, dico alla faccia, 300 miliardi, come? Ci dica come? 300 miliardi di euro disponibili subito, basterebbe domani obbligare gli italiani a non usare più il contante e fare una sanatoria morale, corretta, una tantum, su tutto il nero che circola in Italia. Ah, vabbè, sì. E questa, guardi, sarebbe una bellissima operazione, lo dice un libro. C'è esempio, una campagna importante di Milena Gabanelli di Report contro l'uso del contante per la un'incentivazione che ha anche un aspetto tecnico, è stata proposta a Monti per favorire questa cosa qua e far emergere di fatto per forza tutto il nero. Grazie Pasquale. L'altra idea ce la dica sulla segreteria telefonica 828 1212, la ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Eh sì, però i bambini non fanno solo, fanno anche casino, e infatti quando giocano per esempio nei condomini, e lo sappiamo tutti benissimo, ci sono sempre un sacco di limiti e di divieti e di impedimenti al libero gioco del libero bimbo nel libero condominio, e se non c'è un parco vicino casa questo può diventare un inferno per il bimbo ma anche per il genitore. C'è chi però corre ai ripari rispetto a questa situazione. Parliamo dell'associazione VKE di Bolzano e nella persona di Roberto Pompermaier, direttore di questa associazione. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno. Voi appunto vi occupate dell'infanzia e ultima iniziativa avete premiato a Bolzano, la 10ª edizione tra l'altro di questo originalissimo concorso, il condominio nel quale i bambini possono giocare meglio. Esatto, il premio si chiama Giocare in Libertà. Sì. Ed è appunto la 10ª edizione. Quest'anno abbiamo premiato 3 consigli di Bolzano. Nelle precedenti 9 edizioni, ogni anno abbiamo premiato 5 cortili, per cui in tutto fino ad oggi a Bolzano abbiamo premiato 48 cortili di condomini. Uno potrebbe domandarsi cosa hanno di particolare questi condomini. Per esempio mi diceva che il primo ha trovato una soluzione piuttosto originale e non so quanto esportabile. Hanno praticamente costruito una galleria sopra la quale c'è un parco. Esatto. Però il premio non premia i condomini che realizzano parchi gioco all'interno dei cortili. Sì. Il premio si concentra sulla libertà di giocare, cioè premia i condomini che lasciano giocare i bambini in cortile, qualsiasi stato sia il cortile. Mai, mi permetta la battuta, solo a Bolzano potrete pensare una roba del genere, perché altrove in Italia, anche se il tasto è dolente sicuramente ovunque, però solo voi potevate immaginare una cosa del genere, cioè premiare i condomini. È un incentivo, no? Perché si cerca di mettere così a gara, in competizione, in modo che questo problema venga affrontato. Tra l'altro voi fate anche lobby in comune, adesso avete una proposta di legge. Sì, ne abbiamo, cioè, il nostro punto di vista è questo: i problemi sono tanti e complicati. Noi preferiamo sottolineare gli esempi positivi. Bravo, anche noi con questo programma. Sì. Prego. Che ci sono. Io vorrei ricordare a tutti la decisione che ha preso il Comune di Milano quest'estate cambiare il regolamento di polizia urbana. Sì. All'interno del regolamento adesso c'è un articolo che dice che è vietato vietare di giocare. Certo, come no, questa cosa l'avevamo detta tra i primi anche noi, perché era sicuramente una buonissima notizia. E tra l'altro adesso anche Bolzano ha sposato questa cosa qua. Noi nella nostra attività abbiamo ripreso la notizia, l'abbiamo inviata a tutti i comuni dell'Alto Adige, e il primo comune che ha reagito è stato il comune di Bolzano, che ha inserito una regola pari pari a quella di Milano nel proprio regolamento di polizia urbana. Pensi che io credevo che fosse solo Milano a essere particolarmente chiusa nei confronti del gioco dei bambini nei condomini, invece il problema evidentemente c'era anche altrove, e anche tra l'altro da voi. Esiste dappertutto, credo. Sì. Però avere, diciamo che questo tipo di decisioni orientano l'opinione pubblica e danno, sottolineano l'importanza del problema, e danno ai genitori una migliore momento in cui risolvere i problemi. La sentiamo male, Pumpermeier, c'è un problema sulla linea, evidentemente già un po' dall'inizio della telefonata. Spero si sia sentito quello che ci siamo detti. Roberto Pumpermeier, direttore dell'associazione VKE di Bolzano, che si occupa dell'infanzia. Avete sentito la notizia, premiati i condomini che dove si gioca meglio. Sembra una cosa da poco, ma chi è genitore invece sa benissimo che non è una cosa da poco. Grazie a tutti, grazie a Franco Piantanini in redazione, Giorgio De Luca in diretta, oggi in assistenza, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Valeria Bernardi in regia. Noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno con Si può fare, anche da me Alessio Maurizi. L'augurio di un buon weekend dell'Immacolata, delle feste, insomma, fate come volete. Buona giornata.